se tratterete tutte queste ragazze, addio feste, addio danze. E che? Vorresti ballare col pio stravolto? Non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle. Per buona sorte i vasi erano di Creta. Senza fallo. Andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il pazzo. Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, belle giovani. E a te la sua patente era in tasca rimasta? Certamente. Che razza di domande. Via, non farli più moti, e non t'intende, ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote. Cherubino! Or sì, sei. Che diamine incanta? Non cantano. Ma dici che li saltò stamane in sui garofani? Ehi, lo dice? Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso? Perché no? Io non impugno mai quel che non